Wolf Tricks, i viaggi del lupo. E torniamo in onda con una nuova puntata di Wolf Trips. Ci abbiamo già un po' di indecisioni su chi deve iniziare a parlare. Settimana scorsa abbiamo fatto un po' di pausa all'ultimo secondo. Vero, vero. Ci siamo dovuti fermare. Siamo andati un attimo in pausa, dai, vabbè, in una piccola pausa. By, dai. Va bene, dai, ci vuole ogni tanto. Sì, oggi sì. È il 27 aprile, stavo guardando un po' cosa è accaduto oggi nel mondo. È nato il nostro amico. È arrivato? È nato il nostro amico. È nato felice, è vero. È nato felice e gli facciamo tanti auguri. Facciamo tanti auguri e vabbè, oggi non è una giornata felice per lui, però vabbè. Vabbè, è così. È sempre comunque sono cose felice che succedono. No, stavo guardando un po' le feste che erano successe nel mondo. Sai che a me piace guardare un po'. Cosa nel è successo? Turkmenistan è la giornata dei cavalli e dei cavalieri. Pensa un po'. Oh, questa vabbè, mi piace questa storia. E poi vabbè, invece nel Togo e Sierra Leone abbiamo anche degli ospiti. Degli adesso ospiti. Vediamo di... Facciamo così, allora lanciamo il prossimo canzone, perché se qualcuno guarda la diretta siamo attaccati dalle api. Lanciamo il prossimo pezzo e poi dopo vedremo di tornare in onda. Forse. Your flow far from authentic. All gimmicks, seen too many small niggas get large, augmented. I increase and inflict scars on all lyricists with these thoughts I'm scribbling. Sean the mortician, and it's critical. Your style's original, 9-4 with the make it to wax. You digital, cats biting like this shit's allowed. I sit him down, show him how to rip the crowd and to grip the crown. King with this hip hop thing, you had a bling. Me, I'm like holy matrimonies and wedding rings. Married to the craft, your catalog I bury in the flash. Remind me of Jim. Carrying the mask, perpetrating and pretending to rap. That ain't being innovative, that's identity theft, nigga. Get your own, sorta like Oprah. I'm dropping meteors on those who mediocre. C-O-B-Y-C-A-T-Y. Are you living a lie? Everybody wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody help. Don't be a C-O-B-Y-C-A-T-Y. Are you living a lie? Everybody wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody help. Don't be a copycat. No, don't be a copycat. Nah, say don't be. Don't be a copycat. If I wasn't the letter F, I would probably be Von Seal. 20 years later, I'd be dropping bombs still. You honestly should pay homage and chill or get grilled like an omelet trying to climb in my field. You need to enhance your IQ to do what I do. Purchase a passport and flew where I flew. Have some self-respect, get some self-esteem. Imagine, dream what nobody else could dream. Imposters won't get a slot on my roster. Reminder, you're not him and you're not her, but that betrayal might just get you an Oscar. Tell me, are you a minister or are you a mobster? One minute you Muslim and the next you a Rasta. One second you Weezy, the next you Big Papa. Nah, don't even think of dropping a tape. These cats don't cultivate, they just copy and paste. It's like wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody help. Don't be a C-O-B-Y-C-A-T-Y. Are you living a lie? Everybody wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody help. Don't be a copycat. No, don't be a copycat. Nah, say don't be. Don't be a copycat. Nah. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Thank you.

siamo. Siamo sopravvissuti? Siamo tornati. Dopo questa puntata... O siamo tonnati. Non so, tonnati? A me ancora stanno tremando le gambe, nonché la voce. Vabbè, se qualcuno ha guardato il video ha capito un po' no, quello che succedeva. Era tutto bloccato, non si vedeva. Meno male, direi. Una puntata misteri, animalesca. La radio dei misteri. E io ancora devo orientarmi perché... Ancora. Vedete se parli ancora di, non so, fantasmi, queste no, cose qua. Sai che ti giuro, in questo... No... In questo momento non ce la posso ancora fare. Vabbè, spieghiamo. Abbiamo avuto due ospiti in attesa, mettiamola così. Due special guest. Dal regno animale. Abbiamo avuto, diciamo, Monsieur Calabron. Calabron. Bello grosso. Bello grosso. Che è stato debellato dal nostro supereroe Fabio. Yeah. Grande Fabio, grande. E poi abbiamo l'altro, invece, amichetto che è venuto a trovarci, che era signor... Otto Zampe. Pelosino. Diciamo che se, da racconti dicono, narrano che fosse grande quanto una mano e oltre. Diciamo che addirittura pensa un po'. È come la testa di Fabio, più o meno era grande così il ragno. No, ascolta, se era così grande scappavo a gambe levate. Diciamo che abbiamo tipo i ragni. Non lo so, il ragno. No, non è scappato il ragno, cazzo. Il ragno è rimasto lì. E, no, diciamo che la radio ha rischiato per un momento di essere incendiata con dentro tutto il contenuto. Come ah, beh, se fossi stata io da sola. Quest'ora la dinamite. Buonasera. Vabbè, comunque siamo sì, è arrivato anche voi, Tony. Voi avevate già iniziato il programma. Noi sì, ma abbiamo chiuso subito il, la, okay. l'attacco. Noi avevamo perché... iniziato il programma con un mio urlo. Diciamo sì. che sì, abbiamo iniziato dicendo che c'erano state, cioè oggi che giornata è, bla bla bla, ma poi a un certo punto c'è stato un suo urlo e ho detto vabbè, cioè così, lanciamo una canzone e vediamo se risolviamo il problema. Ma il problema diciamo che è perdurato. Il ragnetto l'ho mandato via io. Che ora è? Che ora è? Sono le, no, basta, sono le 8.33, no, ancora abbiamo un bel po' di diciamo che stasera se non abbiamo il vostro supereroe, dai. Sì, sì, se non abbiamo vero. Un'altra apparizione di quelle che... Sai, la radio è piena di animali, dunque... lupi, è uno, ragni... È un, ma i lupi infatti... non è un problema. Beh, se ti trovassi un lupo, diciamo, in giro per casa, non è che... Dipende se poi dopo è un lupo che vuoi o no. Lupacchiotto. Infatti. Non so se è quello che volevo fare, però... Cos'è che volevi fare? Non è quella che pensavo io in realtà. Vabbè, la cercheremo per dopo, dai, va bene. Vabbè, andiamo a ascoltare un po' di musica così intanto ci stasera riprendiamo. È tutto funk. Sì, yes. Sì, avevo già messo delle canzoni, ma si sono... Si sono bruciate da sole, dai, diciamo. Mettiamola così. Si sono ragnificate e calabronate. Sono volate via. Esatto. Andiamo a ascoltare il prossimo brano e poi vediamo di parlare anche un po' della musica. Del ragno. Sì. You don't want me, don't want me to. I need you, but you don't want me, don't want me to. You left me in the worst way. Abbiamo deciso su suggerimento di Tony di cambiare un po' il ritmo, giusto? Sì, dai, adesso che è arrivata la stagione bella, il caldo, gli animali. No, io direi che dopo un inizio così adrenalinico si può solo rallentare. No, assolutamente, no. È proprio lì che ti sbagli. Io direi, Io direi che 140 bpm. Adesso non è la sede opportuna. Questa settimana è stata una settimana abbastanza di merda. Lunedì arrivo al lavoro. Sai cosa mi è successo? Hai trovato il lavoro? No, ho trovato un ragno dentro al cestino della spazzatura. Io mi sono ficcata dentro il braccio. Cioè dentro nel cestino? Bello. Stava riposando, poverino, magari. Guarda. Comunque, se è vero il detto, siamo diventati ricchi stasera. Che il ragno porta guadagno. Cioè proprio... Sì, ma mi sa che non lo devi uccidere, però. Lo devi lasciare andare. Allora siamo diventati poveri di nuovo. Sì, siamo ritornati a essere poveri. Allora basta, io posso fare bancarotta, quindi... Dai, con te dobbiamo parlare di una cosa. Oddio, questa mi fa paura. Mi fa più paura di te, Fabio. Perché tu devi sapere che lui è un producer? Ha fatto concorrenza. Sì, ha aperto la sua radio. Sì, esatto. E quindi? Dici un po'. Niente, praticamente la radio esisteva già da tempo. Poi per ovvi motivi, un po' perché sono sempre andato via, partito per le stagioni, una cosa e l'altra, poi non c'avevo mai tempo per stargli dietro, l'ho un po' chiusa. Si chiama Radio DVS ed è una radio principalmente che si occupa di musica anni 90 e poi chiaramente spazia anche su altri generi musicali. Quest'anno, tra cui... Ormai se ne riparlerà nel dopo stagione, quindi sì, quando tornerò. Sì. Volevo... Diciamo che è una radio temporanea, mettiamola così. Come i negozi temporanei. Una temporary radio. Esatto. Sì, radio, dai, dillo in inglese, temporary esatto. Radio. Volevo anche inserire un panorama, diciamo, country rock all'interno del programma. Ah, qui vuoi proprio far concorrenza a Radio Lupo? Proprio Radio Lupo, Radio Lupo 2.0. No, allora country rock è un mondo un po' più diverso. Ma tu vuoi proprio country, stai parlando del country, no? Del country rock, che è una cosa che è completamente diverso dal rock normale. Sì, chiaro. Però non sto parlando di pezzi come Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses. Però gli Eagles li puoi mettere a metà. Esatto, però io parlo di più come Blake Shelton piuttosto che Liam Rimes, che sono tutti cantanti del Liam panorama. Liam Rimes è una femmina, no? Liam Rimes, sì. Ho capito perché ti piace il country. È una gran bella donna. Ricordiamo Shania Twain, fine anni 90. Shania Twain, esatto. Ecco. A me viene, quando dite country rock, mi viene in mente, sai, tipo i Cavallerizzi. Bimbo, capito. Bravissimo. Quello dei Rednecks. È vero. E beh, anni 90, perché tu suoni. E poi questa cosa anche techno. Sì, beh, metti tutto. Techno. Che succede? Dimmi, non no, stai bene. No, niente. Eri in pace, tranquilla, rilassata. Rilassatissima. Rilassata esattamente come una corda di violino tesa. No, non parlare di violini perché... Perché questa... i violini pungono. Ecco. I violini pungono, bravissimo. I violini pungono da quando? E quando si chiamano ragnetti? Ti spieghiamo dopo nel fuori onda cosa vuol dire. Andiamo a ascoltare il prossimo brano. Sì, perché c'è stato un caso Qui ha rischiato. Signor. Ne parliamo dopo. Andiamo a ascoltare il brano che è Frank Moody con Dance Move. Poi mi dirai che... Cusolè. my mind. Do you? Cause I could see just from a look in your eyes. You do. I love to see you dance moves. Ti è piaciuto? Ah, sì, bellissimo, bellissimo pezzo. Dai, dai, mi sa che è un mood carino. Infatti, te l'ho detto, dovremmo richiamare il programma in un altro modo. Da Wolf Trips a Funky adesso, Trips. Adesso che arriva l'estate, sì. Funky Wave. Funky wave. No, vabbè, diciamo che facciamo una versione, mettiamola così. Lo potremmo chiamare Wolf Trips in quella roba lì che hai detto te prima. Possiamo fare un saluto a un collega, tuo amico... che diciamo suona anche questo genere qua. Spider-Man, no? Felice. Ah, ok. No, mamma. Felice, guarda, l'avevo già salutato prima per abbia fatto gli auguri perché oggi lui fa gli anni. Pure. Sì. C'è bel modo di festeggiare, prescindere. Vabbè, che ci devi fare? Sono niente. Cose che succedono. Praticamente, sì. Vabbè, diciamo, visto che anche prima ho detto la stessa cosa, sembra che gli sia morto qualcuno. No. Però in realtà diciamo che la radio dove collabora lui non continuerà, mettiamola così. Non adesso non siamo a dare troppi dettagli, sì, perché no, non è faranno uno switch, però lo switch. Faranno uno switch, ecco, mettiamola così. Passerà a radio migliori, nel senso, diciamo, magari più economicamente parlando, non lui, ma la radio verrà acquisita da un'altra, sì, radio. Diciamo, come mi ha detto lui quando mi ha raccontato la cosa, pesce piccolo viene mangiato a pesce grande. Esatto. Quello è proprio il senso della questione. Noi siamo già piccoli, dunque. Quindi, no, ma noi non, diciamo che noi siamo un po' indigesti perché poi abbiamo tutti questi animali che ci portiamo all'interno, quindi esatto. Non ci vuole nessuno. Non ci vuole nessuno. Io poi sono tutto per le ossa, quindi c'hanno, se vogliono rosicchiare qualche osso magari gli può andare bene. Ma... a livello e quindi direi di salutare anche DJ Osso. Esatto. Beh, sì, nel suo è un bel personaggio. Ma vabbè, volevo fare una battuta. Se DJ Osso incontrasse un DJ cane, mamma, povero lui. Ma farà un gruppo che si chiamerà Osso Cane. Osso Cane. Osso. Vabbè, la mia era terribile, ma la tua mi ha battuto. Beh, sempre meglio delle bestie che circolano qua mamma dentro. Mamma mia, veramente. Oh. Va bene, dai ragazzi, è passato. Ma sì, ma... chiudiamo il discorso radio. Com'è che hai detto che si chiama la tua radio? La tua temporary radio? Radio DVS. DVS. Perché DVS? Perché sarebbe per Digital Virtual Space. Digital Virtual, quindi uno spazio virtuale. Sì, vabbè, è un po' è una roba tipo Matrix, mettiamola così. Sì, perché tu devi sapere che anni fa, quando ho fatto il progetto della radio, e senza dire il nome del canale a cui mi appoggio, praticamente si vedevano anche le immagini tutte strane che giravano nel video. Ma erano quindi... foto tue? No, video 3D, proprio visualizer 3D. Beh, qual è il canale, scusa, si può dire? Ustream, vabbè, lo usa anche Radio Lupo, no? Sì, mm-hmm. Sì, lo stesso, diciamo, sì, server di appoggio. Lo stesso server di... Poi ripeto, comunque non ci fa concorrenza, perché comunque è una radio che fa un altro genere e è anche temporanea, mettiamola così. Meno cioè... male. Quindi diciamo che fino a... quando è che potranno ascoltare qualcosa la gente? Fino al... la migente. Fino all'8 giugno. Fino all'8 diciamo giugno. Che è in work in progress. Esatto, una radio work in vabbè, progress. Poi riprenderai ottobre, quindi. Esatto, ottobre. Io ti produco un po' di DJ set, poi dopo te li mando, così almeno cambia anche un po' il genere. Potresti fare una fascia, no? Mettiamola così. Sì, esatto. Perché infatti ci sarà un programma che esisteva già qualche anno fa, che si chiama appunto Mixing the World. Mentre adesso sto andando con lo studio lab. C'è l'imprenditorialità dentro. Sì, sì, sì, sì. Bisogna tagliarglielo un po', però, la voce, perché sennò qua questo inizia a parlare e ci fa il programma suo praticamente. È vero. No, sto scherzando. Vabbè, sono solo due per ora i programmi: Studio Lab, che è quello che sta andando in onda attualmente adesso, e poi Mixing the World, che anche quello sta andando in onda attualmente adesso, ma molto più limitato perché non... C'ho pochi mixati. Quando è che hai detto che finisce la tua radio? Il 9, l'8 giugno, perché 9, ok, il 9 giugno, quindi poi inizia invece il campionato italiano a Turbigo del bodybuilding, se ti può interessare, capito? Cioè, se vuoi presentarti, visto che l'8 sì, finisce. Ha bisogno un po' prima di allenamento, Fabio. Vabbè, continuiamo con un po' di musica. Penso va. Che diventerò come questo qui. Uguale, sì, sì, sì, sì, sì. Andiamo ad ascoltare Funk the Beat, quindi già il titolo, cioè, è tutto un programma. E Clap Your Hands il titolo. Batti le mani, batti le Sex mani. Sex Machine Mix. Questo, se aia. Non è erro, se aia, non erro, aia. Però è ufficiale. Ascoltiamolo, no, poi dopo sicuramente puoi criticarmi. Non ho capito cosa intendi te per ufficiale. Non lo è ufficiale dopo. Perché è stato rilasciato sotto etichetta, quindi per me diventa ufficiale. Dicevi che era un po' più uns, ma sì, posso bello, dirti, bello, ma bello, posso bello, dirti bello, che bello, invece bello. Mi piace e vorrei tenermela così per adesso. Te no, ma poi è bello anche tenere, cioè, bellissimo. Infatti, hai visto. Sembra un, più un funky uns, a dir la funky verità. Uns. Questa effettivamente proviene da Beatport, Ma adesso mi sfugge il campionamento che poi è anche uno... Non lo so se il famoso pezzo machine. Rap. No, lascia stare. Non proprio il pezzo campionato, ma la canzone... La chitarra? Sì, è un pezzo famoso storico hip hop. Cavolo, mi sfugge. Non lo so. Break it up. Non so se è The Message. Perché poi vedrò. Sì, dai, la faccio ridere. Ti sei ripresa? Piano piano, dai. Più o meno, dai. Più o meno. Bentornata qui. Tutto a posto? Sì, dai. Tutto a posto, la camomilla? Tisana, camomilla, mamma, tisana. Altro che camomille qua. Cioè, devi fare proprio litri, Valium litri, proprio. Litri di... Veramente. Ah, vabbè. Forse ho capito. Cos'è, cos'è? Dopo l'ascolteremo. Va bene, va bene. Dopo White, no, White Line. Non lo... No, Nagonosh, no, così al volo. Poi te la faccio dopo l'ascoltiamo. Vabbè. Ascoltiamo uno dei pezzi scelti da te? Sì, dai. Dai, vai, vai. Cheese the Sun, già la dico così. Sì, dai, veloce. L'ho presa così perché il nome del gruppo... Oggi è una giornata un po' così, va. Sì, vabbè, dai, siamo tornati dopo 2 settimane. È come un ricominciare quasi da capo. No, dai, no, no. No, ma in senso buono, cioè, nel senso sì, di sì. Dire... Avere nuove energie, tipo metà sprecare ammazzare animali. Infatti, animali ecco. Esatto. Va bene, dai, questo è molto energico stato, devo dire, Tony. Sì, sì, beh, quello è vero. Molto energico. Adrenalinico. Esatto, molto adrenalinico. Comunque, se il 12 quasi. Maggio non hai niente da fare, puoi andare al Nord Italia e regionale, iscrizioni 15, gara alle 20, no? Così ogni tanto faccio giusto questi... per fare due pesi, no? Due pesi, due misure. Due pesi, due misure. Esatto. Grazie che ha lasciato il volantino. Wow. Volantino omaggio per Wolf Trips. Sì. Non so se era una cosa voluta del tipo, no, dovete andare. Magari pubblicità occulta. Ma magari qualcosa, se mi ci anche regalini. Vedo lei che sembra che deve dire qualcosa. E poi. È persa nel suo mondo. No, beh, diciamo che fa una lettera ogni 10 minuti e arriverà una parola. Compiuta a fine Ma sai serata. Che. Non so. Sono in stato di shock. Perché. Avendo la stessa sindrome, diciamo... Siamo malati così tanto. Ma perché tu torni a casa, come è successo a me, lo trovi o sul frigorifero, così. Cioè, tu arrivi a casa spensierato e dici, sono bello, rilassato, no, peggio. Come adesso, ci eravamo tolti un problema, no? L'abbiamo raddoppiato. Va bene, dai. Always make it one. Vabbè, andiamo ad ascoltare allora Chase the Sun, che non so cosa voglia dire in inglese. Cheese, cavolo, è anche un pezzo non famoso. È cheese? No, non è formaggio. Formaggio al sole, sì, pure. Beh, si scioglie. Fa la raclette. Poi vedremo il... Un pezzo bellissimo. Buona la raclette. È un andiamo pezzo di Ennio Morricone, Sì? Davvero? È un pezzo originale degli anni 60 di Ennio Morricone. Andiamo a mangiarci raclette. Che è? Sì. Le bon. Le bon. Va bene. Chase the Sun. We'll be right back. Abbiamo subito una cazziata, sappilo. Da Debora. Oh signor. Perché? Perché hai usato la video mix. La video official video. Official video. Però devo dire a tua discolpa che effettivamente non c'era scritto da nessuna parte. Perché solitamente c'è scritto official video. Official video. Sì, vabbè. Ma anche il video è bello da vedere. Particolare che è dentro in un manicomio. Sì, un bello. Sì. A me piacciono queste cose, sai. Nel manicomio. Ma nel manicomio ci sono tanti ragni, fidati, non ci andare. Vero. Ormai abbiamo svelato a tutto il mondo che è una fobia pazzesca. No. Guarda, a proposito di video brutti, neanche brutti, però il gruppo come i Sound Lovers, sì. Dice, i primi video che hanno fatto, che tipo People, un'altra. Sound Lovers, non facevano sempre video in spiaggia, se non all'inizio sono molto macabri perché si vedono corpi macellati, queste cose qua. Molto la faccia di Sound Lover. Sì, infatti io sono rimasto male perché quei video lì non li avevo mai visti, poi delle canzoni erano completamente diverse, erano molto più cupe e mi piacevano di più. Vabbè, chiuso la parentesi MTV. MTV per Music Television. Yes, Music Television. Tu sempre ti vedo con quella faccia spersa. No, perché stavo pensando che secondo me siete voi che l'avevate fatto uscire. No. Sì, ammaestriamo grandi noi. No, secondo me quando avete provato a tirar via il calabrone. Secondo me è uscito anche lui. Lui diceva cazzo e ero lì pronto per mangiare. Beh. Può essere, può essere. È vero, avrà detto, ma guarda te sti rompi balli che non ti arriva la cena. Scusa, anche a me mi dà senso tutto il movimento. No, è che poi c'è. Lo penso. Con queste otto zampine pelose. Vabbè, ma possiamo anche cambiare argomento. Sì, ecco. Infatti, volevo chiederti se conosci Dimitri from Paris. Chi è? Lo conosci? Lo conosci di vista? No, di vista. Sei andato per la birra ieri sera? No, Parigi no. Allora, è un DJ, non so se... Non credo che sia francese, devo dirti la verità. È francese, non ne sono sicuro. Andava di moda anni fa. Anni 90. No, non solo. Sì, ma inizio. Poi è ritornato anche in voga negli anni 2000. Parliamo di una persona che sa suonare, in senso sì, anche strumenti, dunque è un musicista, prima che DJ. Ed era famosa per i locali parigini dove si faceva l'aperitivo. Giustamente. E faceva della musica davvero, davvero bella. Musica non troppo esagerata. Beh, a Parigi c'è lounge. A Parigi c'è il Buddha Caffè. E da Buddha Bar, infatti lui ha suonato praticamente. Ha fatto milioni di compilation anche Buddha Gallarate. Bar. Anche al Buddha Gallarate c'era. Gallarate c'era, non so se c'è ancora. Il Buddha no. No, l'hanno chiuso. Ha cambiato 10.000 gestioni e è stato anche bruciato. Perché Buddha. Sì, vabbè. Porca Buddha, questa è brutta. Questa è veramente brutta. Questa era brutta. Questa è più quasi stazione Gallarate. Mamma mia. L'adio lupo dell'Italia. L'adio lupo dell'Italia. Qual è l'adio lupo dell'Italia? L'adio lupo. Ma no, quello compare l'adio. Infatti. Compare l'adio, felice compare l'adio. Dai. Questo è cattivo. Sembra l'adio cinese. Il mio povero Felice. Ecco appunto. Abbiamo perso un pezzo del cursore, adesso dobbiamo recuperarlo. Bene, andiamo a ascoltare il brano successivo che è DJ Gisgel. Di Giselle Smith con Dust Polvere. Chi è? Giselle Smith. Non riesco a dirlo. Giselle Smith. Davvero, c'ho un blocco. E poi ha un nome abbastanza anche in francese, poteva chiamarsi Giselle, era più facile. Giselle. Si distingue dalla massa. Va che Sabrina ti sta ascoltando in diretta. Oddio, cosa ho combinato? Ai. Salutiamo anche Sabri. Non volevo. Vabbè, il brano è di Dimitri from Paris. Poi dopo facciamo i contatti e saluti dopo. Mi raccomando, preparati. Come il brano, saluti? No, i saluti che ce ne andiamo. Contatti, saluti alle persone che ci ascoltano. Saluti, ciao, saluti, saluti. Io ormai ho già salutato tutti. Il brano è di Dimitri from Paris from Cotonet versus Disco Mix. Ho detto giusto? No, non ho detto giusto, ma vabbè. Questo non è preso dal video, no? No, questo sono brani tutti dei miei giri. Versus potrebbe essere mashup. No. Sì, di solito sono mashup ufficiali quando c'è il versus. Ma in realtà no, adesso dopo ti spiego secondo me qual è l'interpretazione di versus. Ok. We'll be right back. Vabbè, stasera abbiamo fatto un po' di aperitivo. Abbiamo iniziato così. Sembra un po' più French Touch questa. Sì, sì, bravo, bravo, bravo, bravo. Hai azzeccato proprio il genere. La, come si chiama? Non la Garnier. No, forse mi confondo. La Garnier è più techno. Sì. No, mi confondo con. Infatti, la Funky House ha un, come diciamo, sottogenere o derivazione anche la French Touch, sì, che è proprio questo filone qui. Che a me non dispiace. No, molto bello, molto bello. Però adesso non mi ricordo il DJ famoso anche, a parte Martin Solveig, però il suo maestro che è Claude Monet, forse è possibile? Può essere. Sì. Vabbè, magari ascolteremo qualche roba sua più avanti. Comunque, volevo dirti, il versus nelle canzoni, sai che c'è? In realtà vuol dire una collaborazione tra due DJ che non vogliono utilizzare lo stesso nome. Cioè, praticamente, che so, mettiamo che io e Fabio, facciamo un esempio più... Ecco. Mettiamo che io e lui volessimo fare un pezzo insieme, no? Ok. Mm-hmm. Solitamente cosa succede? Che crei un nuovo progetto. Ci chiamiamo I Mostri. Giusto. I Nuovi Mostri, i New Monster. Oppure teniamo i nostri nomi e per... O si mette la end o si mette il versus. Il versus è come se fosse una sfida. Si può leggere così, perché il versus è io contro di lui. Esatto. Oppure una collaborazione musicale, potrebbe essere anche una cosa del genere. Ma esatto. Io l'ho visto... Che non è il fit, è diverso dal sì, fit. Sì, no, ma io ho visto il versus in canzoni che mi sembra che proprio, diciamo, il nome prima del versus è quello che, diciamo, va a prendersi un po' l'altra canzone. Quello è stato l'utilizzo che si fa nei mashup, perché non piace più utilizzare la parola mashup, capito? No, ma vabbè, comunque io mi ricordo di una canzone che, di quello che è scomparso adesso. Di AVC con Lenny Kravitz, ma non credo che è una canzone nata insieme. Cioè, la canzone l'aveva già fatta Lenny Kravitz e lui gli ha cambiato la base. Cioè, mi sembra che quello è un, tipo un mashup proprio bello ufficiale, no? Dice, vabbè, un mashup ufficiale. Credo di sì, però magari poi si vedrà. A proprio, mi dispiace che è saltata fuori la notizia. Cioè, è uscito fuori che il ragazzo non ce la faceva più e si è suicidato. Ah, gli AVC? Ah, non lo sapevo. Sì, anche a conferma. Ma quando è uscita fuori? Io sapevo che... Oggi, non so, praticamente i suoi genitori, comunque i suoi familiari, non l'hanno detto direttamente, però... L'hanno fatto capire. L'hanno fatto capire. Poi adesso c'è questo documentario su Netflix... Che parla di lui, non ho capito se è stato fatto. Ma secondo me era già stato fatto. Sì, dai, è impossibile che in due giorni fai un documentario. Lui tranquillamente dice che non ce l'avrebbe fatta, appunto per questi. Ha problemi della malattia? No, la malattia, a quanto ho capito, è arrivata dopo, perché lui, avendo questi ritmi, perché il suo produttore praticamente gli faceva fare tour, queste cose qua, lui non ha resistito allo stress. Un po' la Kurt Cobain, ecco. Diciamo che il problema alla pancia e allo stomaco gli è arrivato con l'alcol, perché lui per stress e tutte queste cose qua ha provato a disintossicarsi, diciamo, da tutto questo però vedi mondo. Adesso detta così sminuisce un po' anche il suo lavoro, secondo me, non il fatto del suicidio, il fatto che comunque c'era comunque dietro un produttore che continuava produci, anche compositore, quindi vuol dire che comunque molta roba l'ha dovuta fare, tra virgolette, posso mettermi in obbligato. Sì, beh, poi quanto ho capito tipo 300 date in un anno sono tantissimi. Sì, no, cioè, 365 giorni l'anno, 300 date in un anno. Ma anche tutto, non è che dici canto una canzone, due e basta. Cioè, lì sono 2-3 ore di spettacolo. È vero che magari è già tutto impostato, però è sempre un po' di stress ce l'hai sempre. Diciamo... È comunque lavoro, ragazzi. Quindi... Sì, ok. No, ma non è lavoro normale, è lavoro altamente stressante. Cioè, lì ti spremono allo stato puro. Va bene, mi è un po' come M2O. Esatto, spremuta allo stato puro. Questa è che ci scappa la denuncia qua. Va bene, un saluto. No, un saluto da AVC, ci magari vuole, magari se riusciamo a mettere un pezzo. Sì, adesso cerchiamo un pezzo di quelli che vediamo, confrontiamoci tra di noi, vediamo qual è un pezzo che ci può piacere. Io penso che lui andrà a finire sul country, quelli country, diciamo. Sì, ok. My brother, e via. Vabbè, comunque un pezzo lo metteremo sicuramente, okay, prima della fine della puntata. Adesso decidiamo quale. Continuiamo il nostro excursus musicale, te piace? Con il brano Lost Kings Don't Call. Non ti chiamo, no? Snug Remix. Snugs. Adesso vado a vedere un po' chi è sto Snugs. Va bene. Don't stop what you're gonna do. Don't start a fight that you wanna lose. Don't try, cause I can see around you. Don't cry when you want me back. Say you're fine when you're off the track. Don't lie, cause I can see around you. Tryna get in my mind. Keep calling and wasting my time. Cause I know that you did it. Texting into my vibe. Cause you heard I'm doing alright. Girl, you know that you did it. Don't call me when you're sorry. Don't call me when you're sad about the way we left things. Don't call me when you're sorry. Don't call me cause you're mad about the way it's ending. Don't call me when you're sorry. Questo pezzo, eh? Bella, bella, questo è un versus, ecco, complimenti. Eccolo qua. Strutamente. A tutti e due. No, dicevo, non è troppo funky questa, però non mi dispiaceva. Electro-funk. Questo molto. Esatto. Electro-pop. Perché electro-funk e electro-pop, esatto, bravo. Sì, ma è sempre. Ma di che cosa vi state facendo? Ma sì, sono menate da DJ producer e che conosco io, che conosci solo tutto, io le conosco. Tutte queste robe qua. A me mi fa girare le balle una cosa che... Su, a proposito di Avicii, che gente che, vabbè, c'è chi critica un po' perché per la vita che ha fatto, dice ma non è possibile che, però è un animo umano e perché la criticano per la vita che ha fatto? E perché dice ma è possibile che lui si, cioè, con tutto il successo che ha avuto, andare a finire su quelle cose lì e... vabbè, ma che ne sai uno della infatti, vita come, poi mi sembra proprio un ragazzo a posto, cioè appunto non, cioè, modesto non lo so, però sono quelle cose che non ti potrei mai spiegare, cioè, sì, capita. Ma poi mi, cioè, qualcuno che mi ho letto ma i poverini sono sfruttati dal mondo musicale, badabì, badabà. E sono pochi i talenti che escono fuori. Ho detto, sì, grazie al cavolo. Continuate a mettere musica di merda. Scusate la mia. la mia guerra contro i mashup e via dicendo. No, ma è la verità. Il problema, tra l'altro, più grande, che secondo me c'è anche in Italia, è che appunto non c'è lo spazio per fare uscire nuovi talenti emergenti. C'è, la musica c'è, basta proporla. I produttori ci sono anche, perché ci sono anche i producer, quelli che non sono conosciuti, ma andiamo avanti loro. Chiaramente non mettiamo tutte le boiate più possibili immaginabili. Tra i tanti producer senti cosa producono e poi, se ne vale la pena, fai qualcosa. Però non che prendi sempre soldi che non sanno più che cosa cavolo inventarsi, e il mashup di quello, e il ritornello dell'altro, il remix di quell'altro ancora, e il reimpascamento di quell'altro ancora. Basta, via, non hai idea? Torni quando c'hai idee, non che continui a stare sulla cresta dell'onda, perché continui a remixare, su remixare. E io lo voto! Bravo! Quando, non hai idee, quando basta, tornerai dalla nave, ti voteremo per tornare. Oh no, indietro. Non è giusto, cioè non hai più idee, adesso fai i volantini. tasto off. Appunto, per citare un famoso pagina di Facebook, abbasso DJ Kani. Yeah. Che tra l'altro quella pagina di Facebook, giusto per chiudere poi il discorso, sai come l'ho scoperta? Abbagliando. No, ululando, siamo sopra di lui. Fabio, poi ce ne andiamo. No, l'ho scoperta seguendo la pagina di un nostro carissimo amico che inizia con la F. Ciao Fabri! Stasera magari ci voleva lui, perché terrorizzare un po'. Vabbè, abbiamo pure il ragno scappato. Ciao Fabri, ciao Fabri. Abbiamo parlato prima quindi di AVC. AVC o AVC? O AVC o ABC? ABC? Dai, adesso siamo dementi. No, dai. No, grande AVC. E niente, ascoltiamo un brano che abbiamo deciso di ultimo EP, hai detto? Era diciamo l'ultimo EP ormai rilasciato. Sì, Avicii 01, mi sembra, che ha estratto due singoli, uno con Corrita Ora. Uno con Corrita Ora e un altro era con Sergio Cavazza, che è un cantante italo-canadese. Questo qua è il brano di Lonely Together, non mi ricordo il remix di chi è, però. Non mi ricordo neanch'io. Vabbè, è un remix, mettiamolo così. Uno dei quattro remix estratti dal EP. Va bene sempre. Andiamo ad ascoltarlo. Shooting your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Yeah, I know and I know and I know and I know that I can be your friend. It's my head and my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied and that's tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, oh. Yeah. Intanto abbiamo recuperato la Krieg, sì, boh, forse. Forse. Più o meno. È tornata dal regno. Ma te la sentite dare i contatti? Eh? Dire contatti. I contatti. Ah, sì. Allora, per... Forza Krieg! Ce la posso fare. Dai, contatto allora, WhatsApp. Ci posso... Sì. Aspetta, reset. Ok. Che bello questo effetto. Lo devi registrare, eh? No, no, è da mixare. L'ha fatto bene. Bravo, è da mixare. No. È un beatbox. Allora, per mettervi in contatto con noi, ci potete scrivere su WhatsApp, WhatsApp della radio 338-222-8983. E potete anche inviarci audio, video, tutto quello che volete, basta che non contengano cose di 8 zampe, ragni, scarafaggi, scorpioni. Viva l'autonomia. Solo il primo che hai detto, va bene. E ringrazierei molto il pubblico. E poi per scriverci ci possono anche scrivere sul nostro Messenger, giusto? Sì. Che cosa usa Messenger? MSN. Messenger, di Facebook. Sì, lo so. Ma. Sulla pagina WolfTrips si fa partire una chat e potete contattarci direttamente. Si digitano dei tastini sulla vostra tastiera e si schiaccia. Ho visto questa foto, ne ho sentito parlare oggi. Oppure possono anche fare le chiamate in diretta, giusto? Sì. Al numero 0331-223000. Diciamo, strumentazione piacendo, sì. Mettiamola così. Sì, è la foto che ha condiviso il Felice della... A diciamo, cosa della stai pensando, Domenico? A questa... No, stavamo guardando la foto, diciamo... Sì. Comunque di... ci sono... Facebook che te lo chiede. Ex colleghi di Radio Lupo. Sì. Tre sicuri, no? Tre sicuri. 1, 2 e 3. No, diciamo, stavamo guardando la foto di Radio Wii che... Adesso, diciamo, tanto che si può dire, sì, tanto sì, anche... Sì. Che praticamente ha pubblicato lo stato cui chiuderà e quindi c'era la foto che avevano messo. E stavamo guardando che c'erano ex colleghi di Radio Lupo, mettiamola così. Giusto? Sì. Ex Lupacchiotti. Sì. Magari torneranno, magari torneranno a farci un giro. Che ne sai? Dici? Non lo so, dipende un po' come se regge ancora tutta questa struttura qua. Ah, non so se non gli ho dato fuoco stasera io. Oh, madonna mia. Va bene, dai, allora continuiamo con un po' di musica e non lo so, ci facciamo una pausa, perché tu volevi un altro brano di AVC, più avanti, dai, sì. Più avanti. Magari noi. Per chiudere. Io ho fatto la mia richiesta. Va bene. Un brano che mi piace molto. Vedremo di accontentare anche la tua richiesta, dai. Sì. Grazie, siete molto gentili. Facciamo stasera. La radio alla vecchia maniera con le dediche. Stasera siete molto gentili. Sì, stasera è giusto, dai, solo stasera. Solo stasera, non prendere Non mi ci faccio l'abitudine, no, perché sennò... Poi torniamo all'attacco, non ti preoccupare, soprattutto ma io. Ma tanto stasera puoi dirmi tutto quello che vuoi che non... Adesso andiamo ad ascoltare Marcus Marr con High Time. Questo qua è un brano di Marcus Marr che stavo guardando. Mi sento. È la serata Glitterbox di vita. Diciamo che faremo le ultime puntate così, visto che ormai ci avviamo verso l'estate, ci sta. Sì, sì, molto bella. Molto e bella. No, stavo guardando un po' di questo Marcus Marr, che effettivamente è un artista abbastanza famoso. Da dove? La zona è, credo che sia comunque. Tedesco? No, America. Sì, ciao. Londinese, UK. Marcus Marr, UK. Marcus Marr. E sto tizio qua, un po' angosciante nella foto. Però vabbè, diciamo. Penso è un allegro, però molto. È un funk. DJ producer, ma anche strumentista. Quindi probabilmente ha suonato live il suo brano. Cioè, sto guardando le date dove. Aspetta, che guardiamo bene. Allora, le date dove suonerà. Suonerà in Polonia, a Londra, in Germania, a Monaco e a Beirut. A Beirut. Cioè, in Italia non c'è mai un cavolo di interessante. Vabbè. Scusa. Allora, le mie cuffie. Vabbè, in Italia abbiamo despassato, ragazzi. Sì, vabbè, ma anche tu è boss, non è vero. È passato anche despassato, mi dispiace. Tra l'altro ha prodotto l'ultimo EP nel febbraio del 2018 adesso. Sotto etichetta DFA, che è abbastanza famosa. DFA? Sì, non l'ho sentito. Non so e questo brano qua effettivamente è estratto proprio dall'ultimo EP. Tu mi dicevi, da dove recuperi questa musica? È ecco. Un sito. Questo è Bandcamp, ok. Questo sì. Un sito che si chiama ipem.com. Io praticamente lo seguo molto. E Ipe, sì, perché Ipe vuol dire qualcosa di. E praticamente l'hype è quando su internet continua a essere nominato qualcosa, sì, postato qualcosa. Può essere un po' di come una like. Sì. Potrebbe suonare come una like, sì. Cioè quella cosa che vedi sta che dando. Ogni tanto il mio cervellino partorisce qualcosa. Hai inventato forse anche qualcosa di nuovo. E il programma Hype Machine io ve lo consiglio perché trovi Machine. Veramente tantissima musica nuova, sì. E tra l'altro la cosa bella è che puoi ascoltarla anche per generi, nel senso magari vuoi cercare solo elettronica o vai anche da no tutti i generi interessante, eccolo qua, anche per esempio se c'è il dance, indie rock, elettronica, sperimental, funk, dal quale ho tirato fuori un po' di brani anche per questa liscio? Sera no liscio no il minimal, hip hop, house, strumenti lo-fi, che è un genere è bassa qualità, sì. Si chiama così, cioè? Lo-fi. Registrato magari live, qualità bassa. Fatto apposta. Okay. Pop, rock, songwriter e poi un'infinità di generi. Questi che vi ho detto sono diciamo quelli più famosi. Acido? Acid house. Esiste ancora. Sì. È molto bello. Questo qua poi è il genere preferito da Tony. La trap. Dall'altra parte c'è la trance, ma da questa parte. Però devo la dirti la verità: che è molto. È straniero. Cioè, c'è anche qualche musica italiana, ma per lo più tratta musica straniera. Infatti, per quello che mi piace molto. Un sito come Bandcamp, quanta roba italiana c'ha? No, sì. ne ha. Tra l'altro questo sito qua poi rimanda sempre al link per l'ascolto o per il download. Per esempio adesso stavo guardando questi brani bellissimi della trap, stavo guardando un po' da dove si potevano acquistare. Per esempio vedi, si può ascoltare da SoundCloud, Spotify, Apple Music, sì, Amazon. Sì, mettono tutti i link buoni. Spotify. In questi giorni si è parlato che comunque la musica in streaming ha superato le vendite. Allora la tua musica, Fabio. Non ho capito. È cattiva questa. Era una battutaccia. Stai dicendo di Spotify? Che Spotify hanno praticamente superato le vendite di musica digitale e fisica. Lo streaming è la quota di mercato più alta. Io sto riprendendo ad acquistare molta roba su. Non sul sito che dici tu, su Beatport più che e altro. Tu c'hai i soldi? No, non c'ho i soldi. No, io compro un disco ogni tanto, non è che compro tantissima roba. Così che comprò 12.500 brani. No, perché lui compra in Wave, perché lui vuole al massimo la qualità. A 2,20€, 2,40€, perché lui è figo. Poi suona però con l'MP3 320. Perché dice perché è troppo pesante. Wow. No, tra l'altro ho scoperto perché domani sera suonerò in una discoteca. È vero, domani sera a Torino. Dalle parti di Torino. E mi stavo informando sulla console, sì. Che sono dei Nexus 2000. che sono bello. Belli, molto belli. Ho visto sono ancora che... con il CD, credo, no? Sono sì. ancora con il CD Barra Chiavetta. E ho visto che i formati supportati sono Barra Chiavetta, cos'è il locale di fianco? La Chiavetta, sì, no, sì. No, Barra Chiavetta. Barra Chiavetta. Barra Chiavetta. No, stavo dicendo che i formati supportati da questi CDJ, che sono costosissimi... E ne ha di pazienza, eh? sono praticamente... supportano il FLAC, supportano la IF... AIF, come cavolo si chiama? È il formato Wave di A. No, di il del formato Mac. Wave no. hanno problemi. Ah, no. Quindi probabilmente smetterò di acquistare il Wave. Te lo, in questo volevo dirtelo. No, perché se anche i Nexus 2000, che sono comunque il top di gamma per i CDJ, non supportano benissimo il Wave, mi sa. Ma per dire anche un formato degli iTunes, la AAC. Adesso è pochissimo supportato, no, ma viene supportato anche dai Nexus. Adesso, 2000. Adesso da... Vabbè. Va bene, va bene. Sì, perché Nexus è supportato da Rekordbox, cioè sì. nel CD player. Alla fine c'è dentro il programma che poi si usano anche nei controller, come tutti i controller della Pioneer, esatto, lì l'RX DJ e via dicendo. E c'è dentro Rekordbox. Di una sigla anche tu, riadattato. Di una sigla qualsiasi anche tu. Di cosa? Non so, stiamo parlando a sigle. A sigle. CDJ, Rekordbox, io ho detto Nexus 2000. Lui ha detto AIF, di una sigla anche tu. È una sigla. Nel 2000 c'è sto cacchio di Rekordbox. Basta. TV LED. Ecco. TV LED, bravissimo. Bravissimo. E con TV LED andiamo a ascoltare invece il prossimo brano, che è il remix di Breakbox, che abbiamo... Breakbot, sì. Sì, ma anche questo abbiamo già ascoltato. Questo è il titolo, anche questa è una sigla. Sì, Shake, bravo, giusto per rimanere. Ok. The Mind Enterprise. Shake your body, everybody. 1978. No, in realtà no, 2018. Ah. Vedi. Discoteca Odissea. No, era... Labirinto. Johnny e Tony Manero entrano in pista. No, in realtà siamo a Radio Lupo e vabbè, diciamo che meglio c'è. Fuori. L'unico Tony Manero che abbiamo è... No, Manero lui. Mica tanto. E Tony ma bianco. E Tony ma... Esatto. Anche ma grigio. Vabbè, pezzo bello, dai. Sì. Ed Bang Records, che tra l'altro ha prodotto della musica veramente particolare. Vabbè, ragazzi, eh. Metà dei Daft Punk. Sì, è vero. E poi vedi, vocoder. Tutta roba sul French. Sì. Molto French. Questo sì. E volevamo ascoltare un altro brano di quelli che avevi estratto tu? Giusto? Quelli che ho estratto io. Li estratti con l'estrattore, mettiamola così. Come si chiama Tuco Better? Aspetta. Eccolo qua, Calvin Harris con Slide. Questo è anche... E siamo su questo genere, alla fine. Questo, vedi, è Fit Frank Ocean. Che è Franco Oceano. Sì, per gli amici è Franco Oceano. Anche quello è un bel disco, ha fatto un bel album. Non so se è un emergente di adesso. Senso, c'era già da molto tempo nella scena underground. Ha fatto l'ultimo album che è stato un po'... Ha visto un po' le luci della ribalta, mettiamolo così. Però era già da tempo. Lui è americano? Americano e California, se non erro. Ocean, giustamente. E... No, comunque, ti ripeto, nella scena underground è da millenni che esiste. Ah sì, lui è quello che cantava Lucky Ossi. No. Mi ricordo. Vabbè, l'anno scorso, niente. Comunque, per mezza tonica. Ha fatto moltissime collaborazioni, quello sì. Sì, quello adesso, non mi ricordo. Ha collaborato praticamente con chiunque, da Justin Bieber, John Legend, Brandy, Beyoncé, Nas. Cioè, ha collaborato con chiunque. Fare William, quello è sempre lì. Come scrittore, proprio scrittore delle canzoni. Come Ne-Yo ai tempi. Che scriva canzoni per gli altri e poi è saltato fuori anche. Ha fatto qualcosina per lui. Quindi andiamo a ascoltarci per la seconda mezzatonica. Sì, estate 2017. Vabbè, l'anno scorso, dai. Sì, no, dico, questa canzone proprio appena l'ho sentita ho detto, questa me la porto in vacanza. Calvin Harris con Slide. Friends really wanna break us apart. Good Lord. All set. good graces. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Ore 49, ragazzi. Sì, ci siamo, dai. Mancano 10 minuti. Sì, a te spero che finiscano, penso che non vedi l'ora che finisca stasera. Sei proprio in fase sofferentissima. No, dai, no, adesso mi sto un po' calmando. Comunque Franco qua non è male. Franco Oceano. Dimmi. Grazie. Di cosa? Ho detto, è tornata in sé. A lui. Ho detto che stavo ritornando un po' con i piedi per terra. Mm-hmm. Quindi un po' bisogna essere sempre coi piedi per terra. Sì. Bisogna montarsi la testa. Eh sì, se no fai la fine di Avicii. Eh sì, Scusate, queste battute. Stiamo facendo battute proprio macabre. Siamo ormai tornati a livelli demenziali. Sì, sì. Ma cosa, perché demenziali? Siamo in ritardo, ma ci siamo, abbiamo recuperato, dai. No, dico a dire cazzate. Sì, insomma. No, infatti dicevo quello. Aspetta, vabbè. No, volevo dire qualcosa. Sì, Franco, non è male il pezzo, bellino. Sì, ha fatto un bel disco. Ha fatto un bel successo anche con questo brano qua, se non erro. Tra l'altro non sapevo che fosse di Calvin Harris. È stato, non so se il primo o il secondo singolo dell'album Funk Bounce. Sì, Funk Rhythm, ok. Per cui c'era anche quella con Pharrell Williams e Katy Perry. Che all'inizio quella non mi piaceva, ma invece casino. Dopo... Che ti piace? Che ti perdi? La canzone. Sì, chiaro. Che ti perdi? Che ti perdi? Vabbè, la battuta solita, dai, fuori. No, Calvin S. quest'anno è ritornato con un po' di musica house. È ritornato sui suoi passi. Meno male. Beh, ok, anche vero. Tu avevi detto che non ti piaceva molto, però... No, mi piace Calvin Harris. Sì, a me piace... il genere che aveva fatto. Sì, un po' così, un po'... Troppo mischione. Andiamo ad ascoltare le ultime canzoni. No, ma caspita, siamo arrivati veramente addirittura d'arrivo. Porca miseria. Non so se quelli dopo ci sono oppure vuoi prolungare un attimino. Vabbè, dai, ascoltiamo ancora un paio di canzoni. Dai. Andiamo ad ascoltare Unibet con Heartbeat. Unibet con Heartbeat. Oh, allora, se siete degli inglesi, insomma, arrangiatevi da soli, va. Ok. We'll be right back. Vai, vai. Vinil mania. Perché vinil mania? Si sente il fruscio del disco, vino, è vero? Vinavilla, sì. Sì, tra un po' col caldo superata. Che farà, diciamo che ci vuole il Vinavilla per noi. La colla silicone, no, la produciamo noi. La pistola a caldo. Siamo noi Vinavilla dopo. Lui sempre avanti. Sì. Lui inizia a parte, fatti. Io sono talmente avanti che se mi giro vedo il futuro. Ma questa è una battuta che dico sempre io. Mi ha rubato la battuta. Siete fratelli mancati. Ah, una certa somiglianza la vedo. Sono DJ, sono produttori, sono anche, fanno i service in un certo senso. Quindi i selfie? Service. Ah, sì. Infatti i selfie non è che dopo magari... Vai in treno, lui va in no, nave. No, sai cosa? Mettigli un braccialetto a mio marito, mica che dopo lo confondi. Guarda, non c'è pericolo. No, ma vai magari ci guadagni, sai. Non dentro al letto no, non mai, no, eh. Mi tengo il mio marito, dai. Logico, perché sei sposato. No. Non è di passaggio. No. Lui è di passaggio, l'altro. No, io sono proprio di passaggio sulla nave. Tu sei passato proprio. Ancora così. Sei trapassato. Trapassato, sì, vabbè. Abbiamo capito che devi andare in nave. Venisci anche tu? No, io ho smesso. Hai smesso di drogarti? Sì. Lo sappiamo. Roba brutta. Visto che è trapassato. Sì, marcia funebre. Ok. Oh, madonna mia. Vabbè, dai, insomma, giusto, un po' di cavolate. Va bene. Andiamo a ascoltarci l'ultimo brano, che dite? Ma sì, dai. Non si stacca più sta cacchia di marcia funebre. Levati! Niente. Non vuole morire. Dobbiamo aspettare 1:09 perché sta cacchia di marcia funebre continua ad andare avanti. No, fermati! Quella è la morte nera. La maledizione di qualcuno che sappiamo. Cioè? FF. Esatto. No, non è FF, no. FB, okay. Facebook. Adesso recupero subito, Dopo una cagata pazzesca, ok, ci siamo. Adesso possiamo continuare con l'ultima canzone. Tanto oggi, guarda. No, ma oggi non è andata male. A parte gli ospiti in attesa. Almeno ci avessero avvisati. Infatti, c'è cioè, almeno, non so, almeno avessero portato da mangiare. È stata una chiesa elettrizzante. Beh, uno dei due era il mangiare per l'altro. Che poi voi siete proprio arrivati nel momento clou. Cioè. Io pensavo che parlavi col cane, non so, ti sei portato un animale. La bestia era una bestia, però vabbè. No, io pensavo all'inizio, quando sono arrivato che sentivo lei che... Pensavo che avessi litigato con qualcuno, che era già dentro. Strano. Beh, stava litigando con il calabrone. Infatti io dicevo, boh. Beh, il calabrese c'era già, quindi... giusto. Infatti il calabrone è il fratello più grosso del calabrese. Ciccione praticamente. Tu stasera finirai ammazzato. Esatto. Tu stasera finirai sì, ammazzato. Sì, non esageriamo, non andiamo avanti con questo argomento. Andiamo a ascoltarci l'ultimo brano che è Wetan Be Like You. Ah, essere quale come disco, te. Vai. Sai qual è il disco preferito del calabrone? Calabria. Hear what you say, running my head, making me so bored. Taking it in, you can't pretend you didn't notice. Pick it apart, back to the start, I didn't know ya. Give it a chance, watching you dance, started to feel ya. I'm Wolf Trips. I viaggi del lupo. Quante puntate abbiamo fatto, Tony? Quante puntate abbiamo fatto? E quando senti che non si sente più la musica e inizi a parlare. Ah, sì. Bellissimo. Eri in onda. Eri in onda. Vabbè, sì. Abbiamo fatto scoprire una nuova fratellanza, dai. Cos'è che hai detto poi alla fine? Non te neanche sentito. Che sei proprio simile a Fabio. Minchia, proprio. Due gocce d'acqua. Oh, mamma mia. Vabbè, con questa serata da urlo. E da paura, da panico. No, panico, no, da panico, no, dai. Panico, no. A proposito, lasciamo stare. Beh. No. Io un pochino l'ho avuto, eh. Sì, no, ma noi panico, paura. Di una cosa... Ecco, per lei adesso ci voleva prima il disco Panico Paura per lei. Prima. Qual è il disco Panico, panico Paura? Panico, panico, panico, paura. Nata marrata, insomma. No, sì. la conosci? No, poi dopo gli chiederò anche a lui un paio di dischi che un tuo amico ti ha passato. Adesso non diciamo nomi e cognomi e le canzoni. Se li conosce, perché dai nomi io ho paura. Non lo so. Ma perché gliele hai passati? Perché no, lui ha... per la sua radio, no? Eh? Ha aperto un sacco di cartelle vecchie della sua hard drive. E mi ha passato un paio di titoli o anche nomi di autori anni 90 che io sinceramente non conosco, però vediamo se esistono. Fanno paura. Vabbè, ma abbastanza. Qual è il problema? Cioè, la musica è bella perché varia, no? A varia, sì, a variata, sì, va. Siamo stanchi. Lui fa delle battute cliché, no? Sì, ormai c'è il dizionario ridotto, è fatto di due fogli il suo dizionario. Dizionario mini. Mini, sì. Va bene, dai, diciamo lei che... Lei si sta ripigliando adesso, eh? Sì, perché... Potrebbe andare avanti un paio d'ore da sola. Perché ha detto che adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare il kebab. Viva il kebabaro! Buono! Non è che ti devi mangiare il kebabaro, il kebab. Mi immagino la scena, sì, del immagino che gira. Oh, mamma mia. E lui che gli passa sopra le creme. Con un faro infilato dove non batte il sole. E dipende, perché se gira può battere. No, gira tutto. Anche le... sì. Va bene. Vabbè, dopo questa scena molto dalla Hannibal Lecter. Sì. Vabbè, comunque io stasera non sono stata accontentata. Ah, è vero, l'ultima canzone di metterla. Sì, con se quella la mette, sul piano. No, la mettiamo in uscita, hai ragione. È stato subito, era già preparata. Ah! Pinocchio! Disgraziato. No, era già stata scaricata. Ecco, è arrivato al suo tono normale di voce. Pinocchio! Dai, va bene, allora diciamo che salutiamo non tutti. Non diciamo cavolate. Tanto che non diciamo cavolate. Salutiamo tutti. Salutiamo Sabri, che ci ha ascoltato. Salutiamo la Debora che ci ha ascoltato da qua. Sopportato. Direttamente dal luogo. Salutiamo gli animali molesti. Esatto. No, col cazzo che li saluto. Ah, fa culo. Vengono a trovarci. Che ormai ci seguiranno le loro anime. Sì. Tipo... Il brutto si chiamano i parenti. Mamma mia. Eccoli, i parenti più grossi. E lì sono cavoli. E niente, salutiamo la Cree che stasera è un po' in versione 60%, dai, mettiamolo così. 50%. No, dai, pian piano sta salendo, dai. Ok. Poi salutiamo Fabio. Dov'è? Ah, lì. No, mi ti ho confuso con lui. Ma quando uno dice... Il braccialetto. Eh sì, bisogna distinguerli, bisogna mettergli il braccialetto col diverso. Col nome, gli regaliamo il braccialetti. Va bene che sono una specie in via di estinzione, ma mi si riconosce abbastanza bene, Bene, benissimo, ti si riconosce. Purtroppo, Va bene. Beh, anche te sei una brutta bestia, cioè... Salutiamo il brutto Tony, questa sera il brutto Tony. il brutto Tony, va bene. Io mi saluto da solo e andiamo ad ascoltare quindi come tua richiesta il brano di AVC o AVC o ABC che dir si voglia con Without You, senza di te. Ragazzi, ciao. Ci sentiremo forse settimana prossima, chi lo potrà mai dire? Calabroni permettendo. Se non succede nulla di particolare. Infatti. Ciao. Ciao. Buonanotte, ciao. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You're said you follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. Clear how I'm wishing that you were here.